Ma vorrei dire, liberissimi tutti di guardare San Scemo, per carità, ma qualcuno di voi, non ha ancora capito che tutto è un intrallazzo lì dentro. Adesso c'è questa scia di Sanremo dove vediamo tutti i spezzenti che si sono andati a vendere il culo a San Scemo in tutti i programmi televisivi, tutte le radio che martellano tutti i giorni. Ragazzi, sapete come si chiama questa? Si chiama mafia. Mafia. E non sanno un cazzo neanche di cos'è il giornalismo, figurati della musica. La massa di venduti del cazzo che tutti gli anni si vanno a vendere il culo a San Scemo. Per esempio tutti hanno detto è stato il Sanremo del rap, ma di rap non c'è stato nulla, perché Achille Lauro è andato lì a fare non si capisce che cosa. Chad ha fatto una ballata e Gamon ha fatto un pezzo urban solo, quindi in realtà non è stato neanche... Ragazzi, un artista, un musicista che si presta ad andare a Sanremo a fare la gara, ma la gara di che? La gara dei coglioni. Un artista che si presta ad andare in quel posto di servi della musica di merda, hai capito? È un leccaculo del cazzo, basta, che va lì solo a cercare di far parte di quel mondo. E allora, andate a fare il culo. È manipolata da produttori, discografici che gli dicono come si devono vestire, cosa devono cantare, dove devono andare, come si devono muovere. E noi parliamo di musica, ma quale musica? Quella non è gente. Omme merda, cinque giorni dove la musica non c'entrava un cazzo proprio, assolutamente. Ma che cazzo è il cabaret questo Sanremo? E poi tutti questi di sinistra che fanno assini, quelli di sinistra col culo degli altri, i vari Silvestri, Gazzè, quell'altro lì, Pappagone, come si chiama lì, Cristicchi, hai capito? Ma chi sono i figli del Papa questi che sono sempre lì tutti gli anni? Vergognatevi, vergognatevi voi, San Scemo e tutti i soldi buttati nel cesso dei contribuenti. Vergognatevi. Una truffa legalizzata proprio, un modo per far sparire milioni di euro dei contribuenti. Bravi italiani, bravi, questi sono la fotocopia di una merda che si chiamano Modà. I Modà sono una brutta copia delle vibrazioni di 20 anni fa proprio. Presentano quella canzone Il mondo esplode. Me lo mettere a voi sotto al culo. Un'altra dimostrazione che Sanremo con la musica non c'entra un cazzo proprio. Moreno! Questo è quello che viene fuori dalle Filippine, come si chiama? Amici. Amici. Questo baffettino da coglione, ma che faccia? Si presenta una canzone Oggi ti parlo così. No, ti parlo io, Moreno, ti parlo io. Anche tu, vattene a fanculo. Dovrebbero cambiare ste cazze di teste a Sanremo. Tutti con amore e cuore, cuore e amore, amore e cuore. La solita canzoncina, ti parlerò di te, mi parlerai di me, amore. Mi parlerete di mandarmi a fare in culo tutti e due. Neck, e tutti gli anni, che tutti gli anni ci provo con la sua canzoncina del cazzo. Malika Yan, che tutti gli anni. E poi questi, bello, passa il festival, esce il disco, partono in tour, fanno due date e annullano il tour, perché non ci va nessuno, almeno c'è un po' di giustizia. E quel coglione che è uscito dalla De Filippi, quel ratto, quei buffetti, che c'ha una faccia da vici, che merda, come si chiama, Moreno lì. Moreno. E bello che la gente l'ha guardato, picchi di ascolto. Allucinante farsi prendere per il culo da sta gente di merda. È allucinante veramente. Ma questa è l'Italia, dai. Brava Italia. L'unica... Sai la cosa più triste di tutto sto circo, no? Tutta sta cozzaglia di marchettari. Milioni di euro buttati nel cesso che potrebbero essere usati per le scuole di musica, per insegnare la musica quella vera. Ai ragazzini, capito, buttati nel cesso. E la gente contenta pure, come dicono a Napoli, burnuta e mazziata. Ma va fanculo, va. Toppino, non sei mai contento. Una volta che Sanremo vince il rock, dovresti andarne fiero. Non puoi sempre paragonare tutti a ben come le Zeppelin simili. È comunque un inizio di una nuova rivoluzione. Emerito testa di cazzo. Uno. Emerito testa di cazzo. Io non ho guardato Sanremo neanche un minuto e non ho scritto una parola su Sanremo o sulla minchia skin. Non ho scritto una parola. Hai capito? Perciò che cazzo stai dicendo? Invece per quelli come te che l'hanno guardato siete una massa di merda. Perché? Perché nessun rispetto, anche stamattina mi ha chiamato un mio amico che vuole vendere due chitarre. I musicisti si stanno vendendo gli strumenti per mangiare. E a un musicista fagli vendere uno strumento come fagli vendere il buco del culo, fagli vendere l'anima. Neanche questo, sapendo la disperazione che c'è in giro, il Covid, cioè quelle teste di cazzo l'hanno voluto fare lo stesso e voi non avete avuto le palle di non guardarlo, capito? Non avete avuto i coglioni per non guardarlo. Io la prima volta che ho sentito il suo pezzo a Sanremo sui bambini, sì, mi sono commosso. Bravo. Poi si è fatto cagare in testa dai piccioni. Effettivamente la famiglia Tenco si è dissociata quest'anno proprio. Ha detto noi non vogliamo niente avere a che fare con queste merde proprio. Hai capito? E basta. Giuseppe Rocca, a tal proposito, c'è un coglione che fa delle canzoncine di merda pop del cazzo. Vabbè, io non so come si fa a ascoltare sta roba, però ascoltano Sfera e Basta ormai. Ormai è perso, abbiamo perso. C'è solo demenza in giro. Però, ragazzi, voi non sapete la differenza tra la musica e la merda. Non la saprete. Non la saprete mai, secondo me. Beato chi la sa. Beato. Il disco aveva mi ha offerto di andare a Sanremo, perché l'avevano chiesto, e io dovevo cantare con una, che non voglio fare nome, se non mi becco una denuncia. Cioè, quando mi ha detto, gli ho detto, ma tu sei pazzo, ma come ti permetti di chiedere, io ho sbagliato, ci dovevo andare. Perché cazzo, andavo sul palco di Sanremo in diretta, mentre cantavo, me l'abbracciavo e gli mettevo il cazzo in mano, in diretta mondiale proprio, e lì ho sbagliato, cazzo, ci dovevo andare, e poi pisciavo sul palco. Per chiudere in bellezza. Hai capito? Un palco che ancora oggi la magistratura Solani che gli sta dicendo che stanno buttando via i soldi dei contribuenti e continuano a spendere i soldi pubblici quando c'è gente che muore di fame in questo paese. Sanremo, San pezzi di merda, altro che Sanremo.